Radio 24 Reportage. Somalia, l'Islam che verrà. Di Ugo Borga, Matteo Fagotto, Giampaolo Musumeci. Il Corno d'Africa e la Somalia in particolare è il laboratorio dove si stanno confrontando e scontrando due anime dell'Islam. Quelle estremiste e sanguinarie degli Al-Shabaab, che in questi mesi premono su Mogadiscio e fanno vacillare il governo transitorio di Sheikh Sharif, e quella più moderata, incarnata dagli stessi clan accolti nel governo somalo e impersonata soprattutto dai Sufi, i mistici islamici, pacifici almeno fino a qualche mese fa, quando hanno deciso di imbracciare le armi. Nella città di Dusa Mareb, 500 km a nord di Mogadiscio, è tornata la calma per ora. La città era stata conquistata nei giorni scorsi dagli Al-Shabaab, gli insorti estremisti islamici, che l'avevano strappata al gruppo sufita Al-Usunna, indipendente ma alleato del governo transitorio di Sheikh Sharif. Poi ancora violenti scontri, dopo i quali Al-Usunna aveva ripreso il controllo della città. Pesantissimo il bilancio, almeno 47 morti, quasi tutti guerriglieri, un centinaio di feriti e migliaia di civili in fuga, secondo quanto riferisce il gruppo somalo di difesa dei diritti umani, Elman. Gli Al-Shabaab puntano al controllo di Dusa Mareb perché costituisce un avamposto per l'avanzata verso il Puntland, la regione semi-indipendente del nord-ovest della Somalia. Al-Shabaab ha introdotto la Sharia, la legge islamica, nella sua versione più intransigente nelle zone che controlla, ha bandito gli infedeli, in generale gli occidentali dal paese, rapisce, assassina, semina terrore e la popolazione è allo stremo. I campi profughi traboccano, gli ospedali lavorano a ciclo continuo. Dopo numerosi episodi di violenze e addirittura profanazione delle loro tombe, i Sufi somali hanno deciso di imbracciare le armi e appoggiare il governo di Sheikh Sharif e combattere così per la stabilizzazione, la pace e un Islam moderato. Incontriamo a Mogadiscio tre rappresentanti di Al-Usunna, organizzazione di Sufi, Sheikh Omar Ali Roble, Sheikh Abdi Mayamed Moore e Sheikh Mohammed Sheikh Yusuf. Ciò che i Sufi fanno è pregare Allah secondo i dettami del Corano, rispettando le altre comunità e le differenti religioni che esse hanno. Il principio fondamentale che perseguono è quello di spiegare alla gente cosa sia la giusta religione di Allah. I Sufi sono il popolo che è venuto a diffondere la religione islamica in Somalia, insegnando la legge islamica anche quando la Somalia era sotto la colonizzazione italiana e sotto l'amministrazione inglese. E non ci sono mai stati problemi allora. Ci fu un accordo. Noi avevamo chiesto di non interferire con la nostra religione e di non introdurre altre religioni nel paese. I coloni accettarono e così la nostra società è rimasta al 100% musulmana. Questa l'anima teologica e sociale dei Sufi, ma da alcuni mesi alcune migliaia di loro, l'esatto numero non possiamo saperlo, né i rappresentanti con cui parliamo vogliono farcelo sapere, hanno imbracciato le armi e stanno combattendo al fianco dei miliziani del TFG contro Al-Shabaab. Noi siamo stati costretti a combattere dopo che persone violente sono venute a uccidere nelle nostre case. Abbiamo vissuto in questo paese pacificamente per lungo tempo, senza mai essere coinvolti in nessuna guerra. Ma stavolta non ci hanno permesso di vivere pacifici o di pregare nei luoghi di culto. Hanno profanato le nostre tombe, dissotterrato i cadaveri e ucciso la nostra gente. Sono quelli di Al-Shabaab che rapiscono e uccidono. Questo ci ha costretti a prendere le armi, per il bene della gente e del paese. Il nostro principale obiettivo è di ottenere la pace e un buon governo in questo paese. Per questo motivo supportiamo qualsiasi governo in carica qui in Somalia e per questo appoggiamo il governo esistente, per la pace e la prosperità della nostra terra. Una realpolitik, quella dei Sufi, stabilità per la Somalia innanzitutto, poi si vedrà. D'altra parte, due decenni di guerra civile hanno svuotato il paese di qualsiasi istituzione degna di questo nome. E così la parola d'ordine per i Sufi è pace e normalizzazione. Tra i nostri obiettivi c'è anche che tutte le comunità del mondo convivano in maniera pacifica, per integrarsi e non minacciarsi, sia quelle con la nostra religione che quelle con religione diversa. Hadafkayga waxa weeye. in un paese in cui la base clanica ha reso il territorio un vero e proprio Far West, un luogo in cui tutti sono armati, un luogo in cui il traffico d'armi è uno dei business più redditizi, l'elemento dirompente degli ultimi anni è l'ingresso dell'Al-Qaeda. I combattenti stranieri tra le file di Al-Shabaab non sono una leggenda. Si stimano in parecchie centinaia gli afghani, pakistani, che ingrossano le file degli insorgenti. Una recente indagine condotta da Al Jazeera stimerebbe in 70-80 elementi l'anno i somali di nazionalità britannica che lasciano il Regno Unito per andare in Somalia. Una volta a Mogadiscio si metterebbero nelle mani degli Shabab e andrebbero ad addestrarsi nei campi in giro per il paese. Una volta terminato l'addestramento, o restano in Somalia a combattere contro il governo transitorio o tornano nel vecchio continente, pronti a compiere attentati. Ascoltiamo ancora i leader sufi. Noi riteniamo che Al-Shabaab sia un gruppo legato ad Al-Qaeda e che loro siano portatori di ideologie prese in prestito da Al-Qaeda. Al-Shabaab sta semplicemente attuando i dettami di un altro gruppo. Non c'è un interesse somalo in ciò che fa. Per questo l'unica soluzione è sbarazzarsi di loro e cacciarli dalla Somalia. Chiediamo ai sufi se una volta sconfitti gli estremisti abbiano intenzione di attuare una loro precisa agenda politica. Il nostro obiettivo è avere un governo per questo paese, un ambiente pacifico per gente che ha vissuto in guerra per 20 anni. Questo governo è di transizione, per cui funzionerà finché non si potranno avere istituzioni regolarmente elette. Chiediamo anche se pensano a una loro possibile elezione. Noi siamo parte della società, per cui potremmo essere eletti, rispondono laconici. Le elezioni in Somalia sono al momento un miraggio. Il paese è allo sbando, lo Stato assente, i servizi quasi nulli. 2 decenni di guerra civile hanno minato le fondamenta del paese. Ma quali sono le ragioni della guerra in Somalia? Da più parti si invoca la struttura in clan della società somala, struttura che provoca spesso il tutti contro tutti. Ogni clan somalo è armato e ogni clan, la cui origine è familiare, persegue i propri interessi. Noi non pensiamo che le milizie claniche siano un problema oggi in Somalia. Anche le milizie claniche e la società intera sono stanchi delle bande armate. Se si dà loro una chance, i clan potrebbero sedersi a un tavolo e negoziare. Ma Al-Shabaab è differente. Al-Shabaab è un cancro. Ospita i criminali da tutto il mondo. Ci sono pochi somali nello Shabaab, se paragonati al numero dei combattenti stranieri. E dato che non sono somali, a loro non interessa la pace in Somalia. Un proverbio somalo recita: il mio clan contro l'altro clan, la mia famiglia contro il clan, io e mio fratello contro la mia famiglia, io contro mio fratello. Il 70-80% dei somali sono pastori nomadi. Quando un terreno esaurisce le sue risorse, ci si sposta e si lotta contro un altro clan per il territorio stesso. Uno degli elementi di novità della discesa in campo dei sufi è il superamento, almeno in questa occasione, di questa logica. Gli Al-Shabaab ricevono armi e sostegno dall'Eritrea e dai consolidati canali internazionali di Al-Qaeda. L'offensiva dello scorso mese di maggio è stata violentissima e ha fatto vacillare il governo di Sheikh Sharif. Solo le corpose iniezioni statunitensi e le azioni di contenimento dell'Unione Africana ha permesso al fragile governo di sopravvivere. Ma Al-Usunna si sente più forte di Al-Shabaab? Se parliamo di potere, dobbiamo fare una distinzione: la parte ideologica e quella militare. Ideologicamente, come credo e come fede, siamo più forti. Crediamo in quello che ci è stato insegnato dai nostri maestri religiosi. Dal punto di vista militare, crediamo di essere come minimo alla loro altezza. Il metro in Somalia è la potenza di fuoco. Il metro è chi spara di più. Il metro è quello militare. In un paese senza Stato, comanda chi imbraccia il Kalashnikov. Se ne sono accorti gli europei, in 20 anni, se ne è accorto l'ONU, se ne sono accorti gli americani, eppure la missione africana di peacekeeping di ugandesi e burundesi, colpiti lo scorso settembre da un attacco suicida che ha fatto una strage nel loro campo base. Ma che cosa rappresenta il teatro somalo oggi e perché è così importante? Il Corno d'Africa è l'avamposto del continente nero verso i paesi del Golfo, verso l'Arabia Saudita e verso il mondo arabo in generale. Da sempre, centro nevralgico degli interessi degli Stati Uniti e quindi anche di Al-Qaeda, il grande nemico. Egemonie occidentali e organizzazioni terroristiche si sono spesso scontrate qui nella zona. La presenza straniera, in particolare quella statunitense, tesa di volta in volta a contrastare alcuni clan piuttosto che altri, le corti islamiche o i signori della guerra, è sempre stato un detonatore. Così come la presenza etiope, che anche recentemente non ha fatto altro che fomentare gli animi e incitarli alla ribellione verso il nemico esterno. Chiunque entri in Somalia con le armi in pugno è destinato al fallimento. Ma c'è chi lo ha fatto con la valigetta 24 ore, come ci spiega Mohammad Farah Siad, commerciante sessantenne di Mogadiscio. Gli arabi, intendo dire gli arabi, quando dico gli arabi, intendo dire un gruppo religiosi nei paesi arabi. Hanno cominciato di investire alcuni somali in Somalia. Somali a loro che sono stati istruiti in Arabia e vogliono eseguire il filo arabo. Ma io sono un africano, io non sono un arabo. Io sono un africano. E la religione musulmana, io scelgo la religione che mi va. Quindi Saudi Arabia non mi può obbligare di eseguire loro, altrimenti non sei musulmano. No, io sono musulmano, ma sono un africano. Un africano nero che sta bene. Hanno messo loro gente, dando 50.000 dollari, 100.000 dollari, eccetera, eccetera, di fare l'attività commerciale. In Somalia, da 85 in poi, investivano per tagliare il filo economico europeo somalo. E ce l'hanno fatta. E ce l'hanno fatta. Non solo questo. Ci sono gruppi religiosi fortemente, non Al-Shabaab, altri, che vogliono avere il potere. Perché? Vogliono il potere per motivi di economia. Quando le dice gruppi di arabi, da che paese? Tanti. Ad esempio? Quelli che c'erano soldi. Emirati? Arabia Saudita? No, il Golf. Il Golfo. Arabi, commercianti, businessmen hanno stretto affari ultimamente in Somalia e Mogadiscio, rafforzando la loro presenza. La tesi di un tentativo di una costruzione di una egemonia panaraba in questo senso, di cui l'Islam sarebbe una delle armi, ma non il fine, troverebbe così conferma. Percorriamo la Maka al-Mukarrama, la strada principale di Mogadiscio, la via che divide il fronte dei combattimenti, fra carretti trainati da asini, qualche pulmino e la gente in cerca di normalità. Alla nostra sinistra, ben nascoste fra le rovine dei palazzi, le postazioni di Al-Shabaab, alla nostra destra, i miliziani governativi. E arriviamo, non senza un sospiro di sollievo, alla sede del vecchio Parlamento. Qui incontriamo Sharif Hassan Sheikh Aden, il vice primo ministro del governo somalo, che spiega il ruolo della comunità internazionale nella risoluzione della questione somala. In verità hanno fatto un gran lavoro. Noi siamo nati sotto gli auspici della comunità internazionale e delle Nazioni Unite. Il segretario dell'ONU ha mandato il suo inviato speciale Ahmedou Ould Abdallah, che ha organizzato gli accordi di pace di Djibouti, Stati Uniti ed Europa. Sono stati quelli che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere gli accordi di Djibouti. Anche se poi hanno adottato una politica di aspetta e vedi per gli aiuti finanziari e non ci hanno supportato economicamente. Tranne gli USA, che hanno fatto invece un lavoro tangibile e concreto per il governo somalo attraverso AMISOM, mentre l'Unione Europea ha dato aiuti umanitari. E anche gli italiani hanno fatto un lavoro concreto, dando aiuto finanziario a qualche istituzione. Sua Eccellenza il Presidente Berlusconi dovrebbe almeno intensificare i propri sforzi per aiutare la Somalia. La Somalia è stata colonizzata dagli italiani. Siamo il solo paese che parla italiano. L'Italia è uno dei paesi più importanti d'Europa per noi, ma non stiamo ancora ricevendo il tipo di supporto che il popolo somalo vorrebbe vedere. Quando la Costa d'Avorio è stata attaccata, i francesi sono intervenuti, i britannici sono intervenuti in Sierra Leone, i francesi in Chad, e perché non gli italiani? Ci aspettavamo con tutto il cuore che la leadership di Berlusconi, la sua grandezza e la sua mentalità orientata allo sviluppo del suo stesso paese fosse rivolto anche alla Somalia. Berlusconi è un grande leader, è un grande uomo che ha cambiato e sviluppato la politica italiana. E ci aspettavamo facesse lo stesso con la Somalia. Vi sentite allora un po' traditi dall'Italia? No, è troppo forte. Non traditi, ma dimenticati. A sentire il governo, con un maggiore supporto, la crisi potrebbe essere risolta. Ma il passato ha dimostrato che la questione somala è una delle più complesse del globo. I tentativi di risolverla da parte di potenze straniere sono miseramente naufragati. Intanto a Mogadiscio e in Somalia si continua a morire e intanto il mondo resta a guardare.